Borse in disfatta. Chi comincia oggi? Non so, facciamo bim bum bam. Pari dispari. Pari. Bim bum bam. Ho vinto io, mi dai 10.000 euro. Credo asilo. Oh, di nuovo qui, terzo giorno di fila. Per forza, K, la settimana lavorativa è di 5 giorni, oggi è mercoledì, 1, 2, 3, sono 3 giorni. Sì, ma non è che me lo devi dire tu, è che mi sembra impossibile che le vacanze siano ormai solo un ricordo. Io non le ho quasi neanche cominciato. Tito, dai, Anche Tito, anche lui soffre a dover star chiuso in casa invece di correre spensierato tra i prati verdi. Guarda che faccina che ha. Lui si tuffava in piscina. Ma come si tuffava in piscina? Ma come? Sì, nuotava, e come no? Nuota, si tuffa, nuota e sale dalla scaletta. Ma veramente, come un essere umano? Sì, sì. Nuota velocissimo, Fa un verso così, tipo... Ma perché? Vabbè. Per vabbè, tirarsi però... fuori l'aria dal naso. Ho capito, adesso e però... poi sale dalla scaletta. Vabbè, anche lui deve salire, se no come no, devi prenderlo tu dalla piscina. Perché sale dalla scaletta. Capite, da dove deve salire? Non lo so, dal bordo alto, non ce la fa. È bordo alto, infatti. Vabbè, comunque le vacanze, K, sono solo un ricordo, dai. Un ricordo che molte persone hanno affidato a Facebook, come no, ben ma sai. Cosa c'entra adesso Facebook? Perché ormai c'è l'abitudine di mettere le foto delle proprie vacanze su Facebook . E questo ha indubbiamente dei vantaggi perché ti risparmia ad esempio le serate dagli amici con le diapositive eccetera, no? Quindi tu le metti e chi vuole le guarda, nessuno le guarda. Però se sei un latitante pericoloso con reati che vanno... L'ascoltatore medio di Radio 24, questo è un messaggio per voi, per allora, i latitanti pericolosi. Se sei un latitante che ha dei problemi tipo associazione mafiosa, spaccio internazionale di droga eccetera eccetera, forse non è il caso di pubblicare le foto delle vacanze sulla Costa del Sol in Spagna, no? Beh, fin lì ci arrivano tutti. Eh no, invece Salvatore Davino, uno dei 100 latitanti più pericolosi d'Italia, è stato arrestato in Spagna dopo anni e anni di ricerche. Le ricerche le facevano in Marocco, dove effettivamente sembra che lui abbia anche abitato. Ma mentre lo cercavano in Marocco, lui era in Spagna, in vacanza, con la fidanzata incinta. E l'hanno scoperto da Facebook. Eh sì, la fidanzata aveva un profilo Facebook e senza pensarci ha pubblicato le foto col suo lui in bella evidenza. Sì, tipo lui e Davino. Ma è lei che faceva il doppio gioco, no? L'ha fatto apposta. Così l'han beccato. Può anche darsi, però può semplicemente essersi sbagliata. E se si è sbagliata, diciamo che è una bella menzione per la figura da pirla dell'estate. Dopo Depardieu e dopo Mourinho, se la merita anche l'anonima fidanzata di Salvatore Davino. Brava! Grazie. Ma mica era per te l'applauso. Beh, anche, no? Comunque Drago si è ingrassato, Io anche un po'. Però tu pensi che dobbiamo metterci a dieta, come al solito. Sì, però attento a non lanciare messaggi diseducativi. Ma no, ma è il contrario, Drago. No, un po' di dieta fa bene. Dipende. Cioè, adesso c'è questo caso fresco dall'America di un libro per ragazzi che si chiama Maggie Goes on a Diet. E cioè Maggie fa la dieta, che parla di una 14enne sovrappeso presa in giro da tutti a scuola, la quale, dopo una drastica dieta, dimagrisce tantissimo e diventa la star della squadra di calcio della scuola. Beh, la parabola molto edificante, a parte il calcio, molto edificante. E a parte anche il fatto che è il tipico libro che può portare all'anoressia, infatti ci sono già mille polemiche e tutto quanto. Vabbè, ma le questioni di peso portano sempre polemiche. Se sei grasso, non va bene. Se sei magro, gli amici ti dicono, ti trovo bene, però lo vedi benissimo che temono che tu abbia una brutta malattia. Sei magrissimo, dici, ma ti trovo bene. Intanto pensano, forse sta per morendo, morire. Capito. Insomma, non è che tutti possano avere il peso forma per sempre. Ci sono momenti in cui si è più cicciotti e altri in cui si è più asciutti. Tu vallo a spiegare agli americani che hanno lo spauracchio dell'obesità infantile che poi gli grava sulle spese sanitarie. Già sono in default. Bambini obesi americani negli ultimi 7 anni sono aumentati del 119%. Aumentati di peso? No, di numero penso. No, però adesso mi viene il dubbio. E ora bambini, ricreazione! Oh, eccolo lì, uno che di diete ne avrebbe bisogno. Cosa? Stai parlando con me? Guardati, bambino Alberto, dai, ma fatti vedere. E cosa c'è? Ma sei esploso quest'estate, ma guarda lì che roba. Stai zitto, che poi diventa anoressico, sai com'è, non bisogna esagerare. Ma ma aspettate un attimo. Cioè, voi siete sempre lì a parlare a sproposito. Allora, io ve l'ho detto, cioè non è la prima volta che ve lo dico. Io non sono grasso. Guardati, come? No, allora, io capisco che da fuori potrebbe sembrare così. Ma è un'impressione. Sì. Perché il fatto è che io sono ancora piccolo. di statura. Sì. E qui per forza, no? Quando una volta che la statura va, vai con la statura, che pongo, cresce la statura, schiacci, ma cosa e dici? Tutto si spalma, no? No, veramente. Allora, quello che voi dite grasso, saranno muscoli, allora voglio vedere cosa. Quando cresci, cresci, cresci sia in altezza sia in volume. Non è che ti allunghi e ti restringi, cioè ti restringi e ti allunghi, non lo so, però ti allarghi secondo ma me. Ma di cosa parli? C'è non il volume, è, anche. Non sei fatto di pongo, capito? Non è come il pongo, lo schiacci. No, ma io pensavo una roba che l'allunghi di solito. Ma vabbè, ma dipende da che dieta fai, no? Alla fine, che dieta hai fatto quest'estate? Vabbè, la dieta, gli arancini, dieta. No? Ma come arancini? Ti sembra una dieta? Arancini. Ma scusa. Gli arancini? La rosticceria sotto casa? Ha tenuto aperto tutto agosto, no? Sì. Non è andata in ferie. E mia madre invece sì. Tua madre cosa? Beh, praticamente ha chiuso per ferie, no? Tua madre ha chiuso per ferie? Sì, cioè, dal primo agosto ha detto, io da oggi, sappiatelo, mi rifiuto di cucinare. Beh, è giusto. Come è giusto? Forse, sì, è giusto, sì. Secondo lei lo fa perché, cioè, seguendo i principi del femminismo anni 70, no? Sì, certo. Quindi lei ha dichiarato chiusa la cucina dal 31 luglio al 31 agosto. Vabbè, un mese, mi sembra. E quindi giù c'è la rosticceria, no? Quella che si chiama Tutto Fritto. E lei ha vissuto il suo mese di gloria, si chiama... Incassi, proprio! Tutto Fritto. Eh sì, proprio Tutto Fritto. Cioè, un nome che... Solo il nome ti ispira a bruciore di stomaco, dai. Tutto Fritto, d'estate, ma... Ma in effetti a me non è successo niente. Ma mio padre è stato tutto il tempo con la piva. Come con la piva? Con la piva, il musonito, no? Cattivo umore. Di cattivo umore. Ma perché? Sempre lì in un angolo e con la gastrite. Una gastrite fulminante. Tu invece no, tu tutto a posto. Io sono un bambino. Cioè adesso tu mi dai una pietra. Ma dai. Te la do in testa. La digerisco. Sì, vabbè. Ma scusa, tutti i giorni arancini, supplì, panzerotti, cos'altro? Sì, merluzzo impanato, patate buono. Fritte, farinata di ceci, pannelle siciliane, di tutto. Ma scusa, ma tutti i giorni? Eh no, la domenica chiudeva anche Tutto Fritto. E quindi cosa facevate? E quindi iniziava il Ramadan, praticamente. Ma che Ramadan? E per forza, non si mangiava niente per 36-40 ore. Come? Cioè, una cosa terribile, no? Quindi, dalla chiusura di Tutto Fritto, il sabato sera, che già cercavamo di farlo tenere aperto anche 10 minuti in più, dai, Tutto Fritto. Sì, però buffati. Chiudi all'1 e un quarto, che per un altro bombolone ripieno di... di ragù. E quindi bisogna aspettare la riapertura. Non il lunedì mattina. No. Pronti con la scodella, no? Il lunedì pomeriggio. Perché? Scusa, perché? Eh sì, perché anche il lunedì mattina è chiuso. E non si capisce, vabbè. Però ha fatto un po' di dieta almeno. Come non si capisce? A Milano il lunedì mattina i negozi sono chiusi, vabbè, no? Vabbè, allora. Calmo, allora, un po' di dieta l'ha fatta 36 ore ogni settimana. Insomma vabbè, non è che sia granché. Purificatrice. Ma prova tu a non mangiare niente. Ma niente. Ma figurati, scusa, se in casa non avevate niente di pronto da mangiare, che ne so, un po' di carne in scatola, di tonno, cose già allora, pronte, no? Vi ho già detto che mia madre ha chiuso la cucina. Vabbè, però. Sì, ha chiuso veramente, In che senso? Sbarrata! Cioè, due assi di legno di traverso, No, ma dai, ma cosa, come per l'uragano Irene. Oh, ma mia madre, non avete ancora capito? È una femminista seria. Quindi lei lo sa che se non fa così, alla fine gli tocca cucinare come sempre, che ci vede le nostre faccette. Dai, mamma, fammi con la panella. Quindi ha sbarrato la porta. Sì, e il frigo invece? Ma no, niente frigo. Il frigo è un sbrinamento. Dal primo al 31 agosto. Ma un mese per sbrinare. E che ne so, io sono un bambino, mia madre ha detto, si sbrina. Però hai preso 6 o 7 kg comunque. Beh, questo è un calcolo che avete fatto voi, chissà. Ma a occhio. Senza bisogno della bilancia. Vabbè, ma adesso riprendo la solita vita. Mia mamma riprende a cucinare. Meno male. È settembre, riprende a cucinare. Cose sane, Quindi bollite. Niente, tutto fritto? No, meno male. Asilo, in mensa. Asilo, mensa. Finocchi. Finocchi cotti. Buone. Insomma, si ricomincia a fare la vita di sempre. Eh sì, appunto. La solita vita di me. Allora, arrivano a frotte, a fiotti, a frotti, a fiotti o frotti, a frattini, a fiocchi, a fiocchi, i tweet sulle con le bambinate dei nostri ascoltatori che vengono depositate allo 02 46 52 44 95, però si può anche dire in un altro modo, tipo? Sì, tipo 46 52 44 95 così. 95. Ma sono le tue misure queste? Sì, perché sono quattro, perché certo. Io vivo nella quarta dimensione.